Prima, i giorni della settimana. First, the days of the week. You already know martedì, Tuesday, venerdì, Friday and domenica, Sunday. But learning them all together will help you remember. Ascolti attentamente l'italiano, l'inglese e di nuovo l'italiano e poi ripeta. Allora, cominciamo. Lunedì. Monday. Lunedì. Martedì. Tuesday. Martedì. Mercoledì. Wednesday. Mercoledì. Giovedì. Thursday. Giovedì. Venerdì. Friday. Venerdì. Sabato. Saturday. Sabato. Domenica. Sunday. Domenica. Ed ora una pausa per il test sui giorni della settimana. Ascolti i nomi di due giorni, lunedì, martedì, e poi dica il giorno che viene dopo. You say the day which comes after. Mercoledì. Dopo la risposta esatta, ascolti i tre giorni in ordine. After the correct answer, you'll hear the three days in order. Così. Like this. Lunedì, martedì, mercoledì. Ripeta la risposta esatta e i tre giorni in ordine. Va bene? Ed ora tocca a lei. Lunedì, martedì, mercoledì. Lunedì, martedì, mercoledì. Venerdì, sabato, domenica. Venerdì, sabato, domenica. Martedì, mercoledì, giovedì. Martedì, mercoledì, giovedì. Incidentally, to say on Monday in Italian, you simply say lunedì, per esempio. I am working on Monday. Lavoro lunedì. And if you want to say on Mondays, in other words, most Mondays or every Monday, you say il lunedì, per esempio. I work on Mondays. Lavoro il lunedì.